È tanto tempo che non ci vediamo io e te. Tra vari impegni, poca voglia e miei guai. Il dolore non dà tregua, vorrei lasciarmi tutto alle spalle. Ci sto riuscendo, forza, spingi, si va. Ora ti guardo, spero di non veder scorrere il sangue in quel fiume marcio. Affronto un'altra giornata, non sono un atleta, dovrei esserlo per mandare tutto giù. Mi faccio una risata quando penso che mi stai pagando per comporre un... Occhi ed orecchie disturbano la mia fantasia. Oh yeah. Ne risente, ma sono convinto che qualcosa di buono verrà. Ci sto riuscendo, forza, spingi, si va. Ora ti guardo, spero di non veder scorrere il sangue in quel fiume marcio. Affronto un'altra giornata, non sono un atleta, dovrei esserlo per mandare tutto giù. Mi faccio una risata quando penso che mi stai pagando per comporre. Affronto un'altra giornata, non sono un atleta, dovrei esserlo per mandare tutto giù.